vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ah, tu dici. Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sì, Renzi sembra una specie di prigioniero politico di Napolitano, rinchiuso da oltre due ore dentro il Quirinale, non era mai successo, ma la lista chi la sta facendo? L'ha portata lui con correzioni, Napolitano gli sta imponendo qualche ministro, pare ci sia un problema sul ministro degli esteri perché Napolitano forse, dicono i rumors, vuole la Bonino, lui invece la Mogherini, poi c'è anche un problema sul ministro della giustizia, Gratteri, che forse dicono per Napolitano è troppo, tra virgolette, giustizialista. Ciao caro Matteino, anche io. Oh, intanto i ministri non saranno quelli che Renzi disse una volta a novembre: quando diventerò presidente del Consiglio ci saranno 10 ministri, 5 donne e 5 uomini. I ministri saranno un po' di più. Nel momento in cui io fossi candidato premier, una parte significativa della squadra sarebbe indicata prima. E aggiungo anche che se io vincessi sarebbero soltanto 10 i ministri, 5 donne e 5 uomini. Immagino non ci sarebbe D'Alema dentro. Questo lo può dare. Questo lo scriviamo. Non ci sarà D'Alema, però ci sarà molto probabilmente un uomo molto vicino a Massimo D'Alema. E indovinate dove? In un posto molto delicato, che è quello del Ministero dell'Economia. Infatti Padoan, economista e tutto quello che volete, un altro tecnico comunque, è uno molto molto molto molto molto vicino proprio a Massimo D'Alema. Tutta l'Italia ti reclama, manco fossi il nuovo Obama, e Fiorenza va puzzana, TV grande. Oh, andiamo a pescare qualcosa di quelli che vengono annunciati come ministri sicuri, poi non si sa bene perché, ripetiamo, questo è prigioniero politico di Napolitano, per cui tutto può succedere, Per esempio Gratteri, che molti dicono una grandissima scelta, perché Gratteri, insomma, magistrato di vaglia, antimafia, grande esperto della macchina giudiziaria, eccetera. Gratteri, questa è una perla che vi diamo, una grande perla. A proposito di Berlusconi, disse, era credo il 2011, se non sbaglio, il 2011, cosa disse? Nella lotta alla mafia, state ad ascoltare questa roba, nella lotta alla mafia è stato meglio il governo Berlusconi del governo Prodi. Questo è spettacolare, tipo Grasso. Non è che il governo precedente, il governo Prodi, abbia fatto di più o meglio contro le mafie. Cioè, ora vi dico una cosa che vi sembra una bestemmia: se voi sovrapponete i 18 mesi del governo Prodi ai 18 mesi del governo Berlusconi, guardate che contro la mafia ha fatto più Berlusconi che non Prodi. Il Ponte Vecchio ai ferraristi. Beh, avete sentito o no? Cioè, avete sentito, questa roba incredibile? Cioè, nei primi, se dovesse diventare ministro della giustizia, questa frase farà discutere. Il governo Berlusconi fece molto di più del governo Prodi. Oh, abbiamo ritrovato tutti intanto. David Parenzo in collegamento da Salerno. Pronto? Eccoci, da Salerno, nella sede occupata del Partito Democratico. David! David! Divento pazzo! Maria Giovanna Maglia, che è pronta con lo champagne. Vecchia carampana? Sì, ciao caro. Ciao giovane rincoglionito. Allora, la vecchia carampana, detta con grande affetto perché la abbraccio fortissimo, la vecchia carampana Maria Giovanna Maglia è pronta lì con lo champagne, Sta lì con lo champagne, sì, perché sì. Cosa? Dimmi la verità, dimmi tutto. Se il prigioniero politico esce con almeno lo scalpo di Emma Bonino, io festeggio, perché sono giorni e giorni di risultati, sarebbero dopo giorni e giorni di battaglia personale contro la signora, sarebbe una cosa consolatoria, neanche tanto, perché il Ministero degli Esteri è un ministerone, ma insomma almeno se su questo Matteuccio si è impuntato, io gli do il mio voto e gli regalo un Kinder. Allora, l'alternativa sembra essere la Mogherini, che è una ragazza giovane, esperta di relazioni internazionali, di esteri, eccetera, e la Bonino. E la Bonino. Anch'io mi chiedo, ma perché la Bonino deve essere per forza ministro degli esteri? Ma Napolitano la vuole Maria Giovanna, secondo te? È Napolitano che l'ha voluta. Lei è ministro degli esteri su indicazione diretta di King George. E perché lì c'è tutta una cosa di salottini internazionali, Aspen, Soros, Bilderberg e tutte quelle robe lì che non servono a niente, di cui lei però è una maestra, maestra. Io quando l'hanno nominata ministro degli esteri non ho nessuna simpatia personale per la signora. Quando l'hanno nominata ministro degli esteri ho detto voglio vedere che cosa fa. Ecco, non ha fatto niente, tranne che una propaganda di se stessa strepitosa, grazie ai potenti mezzi dei radicali, detti anche Chiagni e Fotti, e anche a una supponenza, un'arroganza. Non so se avete presente, se gli ascoltatori hanno presente quando la signora Bonino viene intervistata, sembra sempre che intorno a lei ci sia una puzza intollerabile. No, sei pronta lì con lo champagne, ma sicuramente sbroccherà Pannella. Ricordiamoci cosa disse dell'operazione Renzi, perché magari già fiutava la trappola per la Bonino, già la fiutava. Cosa disse Pannella su Renzi pochi giorni fa? Sicuramente perderà la testa per questa cosa, perderà la testa sempre se la Bonino non venisse confermata. Adesso invece questi vanno, ma pure o capisce un cazzo o capisce troppo, quello è un bischero di Firenze, Matteo Renzi, subito le elezioni, per lui fa i conti con le elezioni. Un po' le PD di sicuro lui le porta di più, ma è tutto. Che cazzo c'è di informazione di ste cose? Le zanzare di casa mia. Intanto Renzi con un tweet dice: arrivo, arrivo, è la volta buona. E speriamo che qui stai prigioniero politico. Se lo dovrebbe uscire. E dai, su. Ma questo alla fine, diciamo la verità, è un altro governo napolitano su cui Napolitano mette un timbro molto forte, diciamola tutta. Che si dice lì a Salerno? Aspetta, David? David? Ma che succede? Io non ho capito. Che succede? Mi adorano perché. Sta uscendo comunque, sta uscendo. Arrivo, arrivo, la volta buona. Sì, arrivo, arrivo, la volta buona. Allora, la signora Madia, quella che scappava l'altro giorno davanti ai giornalisti perché dice non è molto elegante rincorrere le persone, non è un bel modo di fare giornalismo. La signora Madia potrebbe essere, secondo gli UE, ma adesso fra poco sapremo tutto, ministro delle pari opportunità. Certo, proprio il massimo delle pari opportunità lei non è stata, diciamola tutta, diciamola tutta. Diciamo che non ha dovuto faticare per arrivare a fare il deputato. Ricordiamo la Madia mentre scappa dai giornalisti. Farà il ministro del lavoro? Posso dirti una cosa? Sì. Trovo veramente non giusto questo modo. No, perché è inutile inseguire le persone, uno rischia anche di andare sotto una macchina, cioè non è un bel giornalismo. Credo che non sia un bel modo di fare giornalismo e che non faccia onore al nostro paese che attraversa un momento delicato. Oh, ancora Gratteri, ragazzi, perché Gratteri riserverà molte sorprese se dovesse essere ministro. Molte sorprese. A proposito dell'amnistia e l'indulto, è fortemente contro, ma magari meno male, io dico, no, Maria Giovanna, meno male. Meno male, e questa è una vera chicca. Se esce Gratteri, io è il secondo scalpo. Tra l'altro, guarda che bel legame che c'è tra i radicali, odiano Gratteri perché loro sono i sponsor dell'indulto. Sì. Via Bonino dentro Gratteri, stupendo. Sì, non più tardi di 3 mesi fa al comitato dei radicali la Bonino ha detto: Renzi contro l'indulto, se questo è il nuovo che avanza, datemi, voglio con piacere qualcosa di antico, datemi per favore qualcosa di antico. Se Renzi questa roba se l'è legata al dito e adesso esce con Bonino fuori e Gratteri dentro, sarebbe meraviglioso. La Madia però, tu hai dimenticato una cosa, cioè, c'ha una voce bella in positive, sì, autorevole, sì, però è passato da Veltroni a Bersani a Renzi come se nulla fosse. Che bella voce, che bella ragazza, ma anche lei però è nel cuore di King George, eh? Sì, dici. Sono stati quasi suocero e nuora. Aspetta, è vero, perché è stata la fidanzata di Giulio Napolitano, è vero, bravo. Vedi, mi hai ricordato questa cosa interessante, sì. Sentiamo che Gratteri. Vecchia Carampana, quante cose si Mamma mia, che vecchia Carampana. Che sentiamo ancora Gratteri, mitico su Amnistia Indulto. Intanto siamo sempre in attesa di Renzi che esce qui da Napolitano per annunciarci la lista dei ministri. Speriamo, noi speriamo, siamo qui con la bottiglia di champagne, tu dentro Gratteri, fuori Molino. Gratteri, per lei è una soluzione l'amnistia indulto? Assolutamente no, ma la cosa più grave non è l'indulto, l'amnistia, la cosa più grave non è se escono 5.000, 8.000 detenuti in più o in meno, 5.000, 8.000 delinquenti in giro per l'Italia, cambia poco per quella che è la situazione in Italia. E la cosa grave è che si continua a mettere nella testa della gente il tarlo, che in Italia poi alla fine tutto si può aggiustare, alla fine c'è un rimedio, alla fine c'è almeno uno sconto. Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito. Quest'uomo già è il mio mito, signor Nicola Gratteri, certo avrà a che fare con i politici, perché disse destra e sinistra sono tutti uguali una volta, disse destra, sinistra, sono tutti uguali, ce l'abbiamo pure questa roba, no? Mi sembra, ma andiamo Gratteri, vai Gratteri, prossimo ministro della giustizia forse. Chiunque ha il potere, sia esso di destra o di sinistra, non vuole un sistema giudiziario forte e una scuola che funzioni. Perché un sistema giudiziario forte vuol dire poter quindi poi controllare il manovratore. Una scuola efficiente vuol dire avere della gente colta, dei ragazzi colti. Intanto Maria Giovanna, non è passato l'appello per un personaggio ministro dell'economia, perché Padoan probabilmente non farà il giuramento perché sta tornando dall'Australia, dunque giurerà dopo, ma negli ultimi giorni qualcuno voleva Sebastiano Barisoni, noto conduttore di Radio 24, ministro dell'economia. C'è stata anche una piccola mobilitazione, lo stesso Mannoni, conduttore di TG3 Linea Notte, aveva detto a Barisoni: ma perché non fai tu il ministro dell'economia? Sebastiano Barisoni, vice direttore del Sole 24 Ore, bentornato. Buonasera. Sebastiano, cercano un ministro dell'economia. Tu potresti candidarti, giovane, preparato, con buone conoscenze in Europa. Guarda, posso essere d'accordo forse solo sul giovane. No, mi sembra che il ministro dell'economia si sta... Ma quale giovane? Manco quello in realtà, rispetto ad altri. Rispetto a Renzi sicuramente no. Vabbè. 800-24-0024, siamo sempre in attesa di Renzi Cash, che dobbiamo fare qua? Dimmi, Maria Giovanna. Beh, ma scusa, perché Barisoni all'economia, tu all'interno e io agli esteri, non sarebbe, come dire, una squadra di tutto rispetto? Sì, dopo 5 giorni minimo ci arrestano, minimo, come minimo ci arrestano. Ma perché Sgarbi, per esempio, ce l'ha tanto con Alfano? Tu l'hai capito, è avvelenato con Alfano, oggi addirittura gli io ha dato... Io lo capisco profondamente. Lo so che lo capisci. Perché alla fine questo qua è inutile che Renzi dice. Sì, questo qua è un governo Renzi-Alfano, diciamo la verità. Perché Alfano alla fine che cambia? Solo le poltrone, solo i culi, come dice qualcuno, no? Solo le cadreghe. Alla fine è il governo in cui. Cioè, che cambiano un po' di poltrone, poi che differenza c'è dal governo Letta? Niente, il presidente del Consiglio, diciamo. Basta. Sgarbi, Alfano, membro della mafia. Non puoi fare della finta antimafia facendo credere che Riina è ancora potente. È una menzogna, lo Stato è la vera mafia e la scarica su quelli che non lo sono. È una tragedia. Sto parlando del fatto che Renzi... No, non è una... Io sto dicendo che governa con Alfano, che è un uomo incapace, traditore e privo di qualunque vera lotta alla mafia. Quindi la mafia è in questo governo, attraverso il signor Alfano, esponente della mafia organizzata. Arrivo, che cos'era? Una presa per il culo? Penso anch'io, sì. Era l'appello disperato del prigioniero politico. Era arrivo, venite a prendere se potete. Perché la porta è chiusa, toglietemi. C'è su Twitter un giovanotto che ha detto: il mio sogno. Adesso esce e dice: non lo faccio il governo, basta, mi avete stufato. Intanto diamo la linea al giornale radio, ci risentiamo più avanti. La Zanzara vive e lotta insieme a voi, nonostante sto cavolo di Renzi sia ancora prigioniero politico di Napolitano. Oh ragazzi, abemus papam. Parenzo, dove sei? Dove sono? Sono a Salerno, amico mio, a Salerno. Che dicono lì alla sezione del Partito Democratico ma sul governo? Ma hanno sbattuto fuori. Perché ti hanno sbattuto fuori? guarda, la cosa è incredibile, la cosa è divertente. È gravissimo quello che è successo. L'onorevole Vaccaro, io ero qui armi e bagagli con tutta la produzione di Matrix. Vabbè, allora? E l'onorevole Vaccaro del Partito Democratico di Sede Lettiana ha occupato la sede del PD di Salerno per protestare contro presunti brogli per le elezioni regionali. Vabbè, chi se ne frega allora? E chi se ne frega? Vediamo bel belle con la nostra telecamera. E un funzionario dice: no, qui non potete trasmettere. Dico: ma come, la sede è occupata? Vabbè, adesso dove sei? Non ho capito. Ma dove sono? Ma hanno sbattuto fuori, sono fuori per strada. Bene, fuori, per strada. Ma come bene? Per strada devi stare, per strada. Posso passare un militante qua del PD che è con me, solitale, nella chiamiamola. No, ma vorrei capire che ne pensa del governo Renzi, il militante del Partito Democratico. Questo che me ne frega. Ma mi hanno sbattuto. Ma questo militante che dice? Che dice questo militante? C'è un'attenzione, riusciamo qui con la telecamera o no? No, per la strada ci mettiamo. Hanno sbattuto fuori. È pazzesco. Vabbè, vabbè, non me ne frega niente a me di quello che fai tu là. Intanto fatemi sentire il passaggio di Renzi in cui dice che metà dei ministri per la prima volta sono donne, cose di cui non me ne può fregare di meno, ve lo dico subito. Non me ne può fregare di meno, è una roba di una demagogia assoluta, il fatto di cercare in tutti i modi che ci siano metà donne e metà uomini, una puttanata mega galattica, perché bisogna mettere le persone giuste al posto giusto, al limite. Certamente non mettere per forza metà uomini e metà donne. Chi l'ha detto? Chi l'ha scritto? Per la prima volta l'Italia ha un governo che è fatto per metà da donne, è un governo che è composto da 16 persone. Siamo andati a scrutare il dato più interessante che abbiamo trovato, è un De Gasperi 3 con 15 ministeri. A me sembra che ci sia un vincitore assoluto, che sia il nuovo centrodestra di Alfano, perché Alfano resta ministro degli interni, conferma i ministri che avevano prima, Lupi e Lorenzin. Beh, alla fine se ottengono pure il fatto che la legge elettorale non si fa subito ma si fa dopo l'approvazione, dunque campa cavallo l'approvazione della riforma del Senato, trionfo totale. E poi hanno fatto fuori l'amico Gratteri. Parenzo, hai capito? Hanno fatto fuori il nostro amico Gratteri. Sì. Ma tu manco sai la lista, ma che hai fatto fino adesso? No, so la lista, ma che ho fatto? Ecco qui Vaccaro, in diretta con Radio 24, ho sbattuto fuori anche lei. Ma a me non me ne... Davide? Qualche minuto d'aria. Oh, caro Vaccaro, calettiano di ferro, hai sentito del ministro? Del governo? Sì, ero lì davanti alla TV. Allora, che dici tu che sei un lettiano di ferro? È uguale, hanno cambiato le poltrone, che è cambiato? Come si comincia? In questo caso mi dice mia madre, silenzio e preghiera. Ma no, come silenzio e preghiera? Dai, che vuol dire silenzio e preghiera? Dai, dimmi che non è, secondo te è una buffonata sta roba, dai, dimmelo chiaramente, su. No, è come quando poi l'allenatore della nazionale fa la squadra, fa la rosa, bisogna crederci. Tu sei tifoso, no? Ma io non so tifoso per niente, figurati se so tifoso. Ma scusa un attimo, ma che è cambiato alla fine? È vero che questa cosa di metà donne è una stronzata o no, secondo te? Metà donne e metà uomini? È una roba demagogica, dai. Non fa mai male, diciamo così, l'equilibrio. Io sono poi sostenitore della parità di genere, quindi insomma, devo dire che Renzi da questo punto di vista è bravo, comunica, ha fatto il paragone con De Gasperi, ha detto che solo De Gasperi per un piccolissimo ministro in più ha comunque fatto meglio di lui. Cencelli ci ha messo la mano, Galletti, uomo di Casini, ministro della pubblica, ministro dell'ambiente, pure Montezemolo, no? Pure Montezemolo ha detto la sua con Federica Guidi, che dici, no? Ministro dello sviluppo economico. Poi l'idea di non far arrabbiare nessuno quando fai politica, insomma, la coltivi, poi magari non ci riesci e domani sicuramente ci sarà qualcuno che si lamenta. Chi si deve lamentare qua? La sinistra del PD è accontentata, la minoranza è accontentata, tranne i lettiani come te che ormai siete fuori da tutto perché non contate un cazzo, non contate più nulla, siete quattro gatti. Hanno cacciato anche dal PD occupato. Esatto, non contate nulla. Qualcuno mi deve spiegare la nomina di Giuliano Poletti, uomo delle cooperative rosse, a ministro del lavoro, misteri della fede. Ma l'ha appena spiegata Matteo. No, non l'ho sentito, la conferenza, che è successo? Che ha detto? Ha detto che lui l'ha rappresenta il movimento che più soffre, paga la crisi, quindi il movimento che più soffre, ci si fa compagni di viaggio e in questo modo si affronta il dolore, lo si trasforma in proposta. Matteo Dixit. Dixit. Appunto, Matteo Dixit, ecco, intanto se n'è andato. Pubblicità, torniamo subito, ciao. Rosa, rosa, rosa. Intanto sta finendo di parlare Napolitano, che ha detto che non c'è stato alcun braccio di ferro, ma proprio in questo istante ha concluso il suo discorso. Il signor Napolitano: desidero rinnovare il mio grazie a Enrico Letta, non c'è stato alcun braccio di ferro. Allora che siete stati a fare tre ore dentro quella camera, dentro quelle stanze del Quirinale? Le notizie sono diverse. La prima è che hanno fatto fuori la Bonini dal Ministero degli Esteri con grande scorno dei pannelliani. Primo. Ma si sente Napolitano che sta parlando con i giornalisti o no? No, non si sente niente, sta parlando ancora con i giornalisti. Allora, la prima è che hanno fatto fuori la Bonino. La seconda è che la giustizia alla fine forse l'ha spuntata Napolitano, che non voleva, a meno sembra, Gratteri, è andato invece Andrea Orlando, che non voleva andare, PD, non voleva andare alla giustizia, poteva restare all'ambiente, e invece via, dirottato alla giustizia. Lo spray, lo faccio secche con lo spray. Sul resto sono frattaglie, dai. Sono frattaglie. All'economia si sapeva che va uno che ha lavorato con D'Alema, con Amato, come Padoan? Parenzo? Sì. Eccoci. Allora, fammi una gentilezza. Siamo in diretta, no? Sì, ecco, sì, appunto. Che è successo? Allora, fai una gentilezza. Adesso è arrivata anche la Digos. Senti, ma noi di quello che sta succedendo lì non me ne frega niente a me. Un caso, anche un cane. Tutu. Dai, Davide, non me ne frega niente di quello che succede lì. No, chiama De Luca per cortesia e chiedi se ci fa trasmettere da qui. Ma non me ne frega niente! Non me ne frega nulla! Dobbiamo parlare del governo! Ma il governo, ma questi qui però sono del PD, sono incazzati. Vabbè, fammi parlare di Calà con gli ascoltatori. Se non ti vuoi convincere che a me di quello che succede lì a Salerno non me ne frega niente, o mi passi i militanti del PD per capire se cosa ne pensano del governo Renzi, oppure non me ne frega nulla di quello che succede lì a Trieste con la tua diretta, a Salerno con la tua diretta. Hai capito o no? Calogero, dai. Pronto? Sì. Vai. Bene, grande soddisfazione per la torchiatura di Napolitano al bebè della politica, veramente grande soddisfazione. Lui ha fatto due cose, non ha fatto nulla di quello che ha detto, ma ha fatto due cose. Ha ridato agio a Berlusconi di tornare a essere leader del centrodestra, adesso ha dato l'aggio a Alfano di diventare un leader del centrodestra, perché ha calato le braghe su tutto. Quindi, voglio dire, questo è veramente un uomo deleterio per la sinistra. Ma chi è un uomo deleterio? Chi? Renzi è un uomo deleterio. Vabbè, aspetta un attimo, adesso vediamo, insomma. No, è un uomo, già si vede, lui, guarda, soddisfazione, lui ha sempre tenuto il banco, è arrivato da Re Giorgio e il banco gli è scomparso dalle mani. Cioè, ha dovuto contrattare i ministri. Ma che tratta, uno come lui che dice faccio 10 ministri, 5 donne, 5 uomini, spacco il mondo, cambio tutto, tratta? Ma cosa tratta? È costretto a capire un po' di regole, è come un adolescente che gli devi far capire le regole, e adesso è arrivato il papà che gli fa capire, dopo 60 anni di Parlamento, che gliel'ho tolto, poi ha detto prende il banco. Va bene, Cinzia da Lecce. Buonasera, ciao, senti, guarda, due cose veloci, primo... Sì. Sono d'accordissimo sul fatto che questa par condicio fra pari opportunità uomini, donne, cioè secondo me devono essere capaci e intelligenti primo, quindi questa è già la prima cosa. Ma sì, ma perché questa donne, fissazione metà uomini e metà donne? Ritrovo che sia veramente ridicolo. Mi fa piacere, lo dica lei che è una donna. Come trovo che sia ridicolo questo fatto che dobbiamo mettere quelli di colore al ministero, perché se no sembriamo razzisti. Oh, a proposito Cinzia, questo buonismo del cazzo mi sta proprio... Mi ha proprio rotto. Scusi Cinzia, a proposito, Parenzo, sì. Ti annuncio che il famoso Ministero dell'Integrazione condotto da Cecil Kyenge si è dissolto nel nulla. Era così importante, così decisivo. Era così decisivo questo Ministero dell'Integrazione guidato da una donna di colore, per carità, bravissima persona e tutto quanto, che Renzi l'ha cancellato così. È una cosa positiva questa qua, molto positiva. La Lega non sarà contenta. Male. male. La Lega non sarà contenta, perché la Kyenge era un'arma di battaglia. Adesso dalla Padania bisogna togliere anche qui Kyenge con gli appuntamenti del ministro. Cinzia, allora? Ridicola questa cosa, vabbè. Non ridicolo tutto questo teatrino. Comunque, per quanto riguarda Renzi, arriviamo al... Allora? Per quanto riguarda Renzi, io ritengo che anche se fosse stato, come posso dire, se avessero scelto come primo ministro Gesù Cristo sceso in terra, non ci sta nulla da fare. Ti spiego perché. Non è il problema Renzi, Letta, quello, quell'altro. Il problema è che noi non siamo più un paese che ha una sovranità parlamentare. Vabbè, questo è un altro discorso, perché dice tutto quanto dipende da... Quindi voglio dire, quantunque Renzi è animato di buone intenzioni, forse, non lo so, forse, lo lascio con la... Però vorrei capire da Maria Giovanna Magli, che adesso richiamiamo, se ha stappato lo champagne, adesso la richiamiamo. Allora, Cinzia? Ecco, dicevo che comunque, non essendo più noi un popolo sovrano, e quindi non essendo più il nostro Parlamento atto a fare quello che un Parlamento di un paese democratico dovrebbe fare, chiaramente qualunque persona vada a sedere su quelle poltrone e lascia il tempo che trova, anche secondo me, anche secondo me, non può risolvere assolutamente nulla. Il problema non è in Italia, il problema è l'Italia che ha i suoi problemi. Lei dice la sovranità monetaria che non esiste più, eccetera. Sovranità monetaria che non esiste più, la sovranità parlamentare che non esiste più, ragazzi, è il terzo Presidente del Consiglio che non è stato eletto dal popolo, ma insomma, ma la terzo di seguito. La Costituzione, qualcuno si è preso mai la briga di leggersela? Io questo voglio chiedere agli italiani. Un attimo solo, Cinzia, un attimo solo. Allora, David? Sì. Sai che Maria Giovanna ha stappato la bottiglia? Ha stappato la bottiglia, è stata stappata la bottiglia, Maria Giovanna? Siamo per. Un po' la mia gioia è un po' mitigata da Gratteri, dalla fregatura che ci ha dato. La fregatura di Gratteri, sì. Però in un solo colpo essere liberata di due donne, diciamo così, che a me appaiono molto poco rappresentative del bel sesso, ovvero da Bonino, della Chiengè, sono soddisfazioni. Cioè la Bonino, la Chiengè fuori, purtroppo Gratteri non ce l'abbiamo fatta, è uno che era contro l'indulto. E poi attenzione che c'è dentro la Madia, che farà alla funzione pubblica, ma di che stiamo parlando, dai? Sì, e le semplificazioni, così abolisce i ministeri, così non si sbaglia più quando ne deve trovare uno, ne abolisce un po', così ritrova. Diciamo che c'è sempre una ragazza carina per tutte. Vabbè, le sei contenta a metà, dai, sei contenta a metà. Vabbè, ti abbraccio. Sono contenta. Ti abbraccio, vecchio sarchiapone, ti abbraccio. Dimmi. Fammi dire una cosa a Maria Giovanna. Che c'è, vecchia carampana, che c'è? No, voglio dire a Maria Giovanna che non ha proprio un bel nulla da stappare, a mio avviso, perché la Kyenge e Emma Bonino sono due persone che hanno dimostrato con la loro storia... Parenzo mi fa pensare a Gigi Proietti, quello che c'era Proietti a Sanremo, non me romper ca, tu me romper ca, ancora, con questa storia della storia. Alla storia, alla storia. Fa la cronaca, non hanno fatto i ministri in maniera decente. Ma su che, sulla base di che cosa? È semplicemente la tua, una posizione provocatoria, giusto per dire, ecco, la donna di colore al Ministero dell'Integrazione. Non serviva a niente, Renzi l'ha cancellato. Non questa serviva a niente, la Bonino non ha fatto niente, la Bonino si è permessa di dire che non era certa della colpevolezza dei Marò. Stai zitto, Parenzo, ti faccio mangiare dai Salernitani stasera. La signora Emma Bonino ha ritirato il ministro, il nostro ambasciatore. Hai visto che ammazza, meglio tardi che mai. Sì. Ha usato tutti gli strumenti della diplomazia. Tu, vabbè, comunque ragazzi, Bonino addio, comunque al di là di questo, Bonino addio. Ciao, anche a te. Ciao. Nel profondo sud, ciao. La zanza. Oh, fatemi risentire un Pannella incazzato su Renzi di qualche giorno fa. Adesso chissà come starà il pannellone. L'alternativa non c'è, perché il salto nel buio significa oggi chiarissimamente un buio, un vuoto che incontra, lo ripeto, melma e putrefazione. Tutto qui. Melma e putrefazione. Non respiro. Mauro da Imperia. Pronto. Eccoci. Quando sento te, Parenzo, io godo come un porco. Oh, no? Meno male, meno male. Io non ho votato Renzi, per cui ovviamente sono uno dei democratici, del Partito Democratico, ma sono contento perché a questo punto deve tirare fuori tutto quello che ha. Se vuole dimostrare e parlare. Comunque, ragazzi, il governo è di un profilo, diciamo, medio, forse medio basso. Oh. Per cui attenzione, tutto si sposta intorno alla figura del presidente del Consiglio. Sì, cioè, tocca direttamente a lui. Gli altri non contano nulla. Beh, anche perché non ha fatto il vice premier, per cui è chiaro. Ma sì, che... ma vediamo anche, vediamo ora diciamo le seconde linee che sono molto importanti. Però ci voleva un toscano. Io abito in Liguria, ma sono toscana anch'io, per portare due ministri liguri diciamo nel governo. Vabbè, ma chi se ne frega adesso dei ministri liguri, vabbè, lombardi, romagnoli, della Basilicata, ma chi se ne importa, contento, dai. Sono contento una cosa, che avete inchiappettato bene, ma con cosa che tutti vi criticano, se no ce lo trovavamo tra i palle anche lui. Ah, Barca, questi, dici tu, Barca. Tutti Barca. Intellettuali che vanno a rompere le palle a noi poveri lavoratori. Vabbè, ma che c'entra? Adesso lasci perdere, Barca è una bravissima persona, non c'entra niente. Sì, ma no, anch'io, però è uno che fa quelle aveva cose... delle idee sulla patrimoniale, delle idee che evidentemente non combaciavano. Poi non so se veramente lo volevate. Benedetti, fermi tutti, fermi. Sono come zanzare. Oh, allora abbiamo con noi per un primo giudizio così proprio a braccio, proprio a fa caldo, a caldissimo sul nuovo governo Renzi, Massimo Cacciari. Buonasera, professore. Buonasera, ma io non posso esservi d'aiuto perché ancora non ho seguito. Allora te lo diciamo noi, professore. Allora, innanzitutto la Bonino fatta fuori. Non è più fatta ministro. Fuori la Bonino? Fatta fuori la Bonino, sì. Bonino fatta fuori. È andata una Federica Mogherini, 40 anni, esperta di esteri, è molto giovane. La conosco, brava. Si chiama Mogherini, comunque fatta fuori. Alla fine al Ministero della Giustizia, che era una cosa, come sai, piuttosto, no, piuttosto sensibile, è andato Andrea Orlando del Partito L'ex Democratico. Responsabile giustizia. L'ex responsabile della giustizia, uno che certamente non è un giustizialista, è uno che mi ricordo fece anche una lettera al Foglio una volta sulla separazione delle carriere o cose di questo tipo. Alfano confermato ministro degli interni, confermati i due ministri di NCD come la Lorenzina alla salute e Lupi alle infrastrutture. Poi che vuoi sapere? Vabbè, Padoan lo sai, no? Padoan all'economia si sapeva ed è stato confermato. La Boschi alle riforme, Federica Guidi allo sviluppo economico, figlia e all'economia, di... l'economia? Padoan. E al lavoro, ecco, questa cosa è incomprensibile, secondo me ancora la devo capire dal punto di vista politico. Poletti della Lega delle Cooperative. Poletti, sai Poletti, no? Uno dei capi della Lega delle Cooperative. Bah, misteri della fede. Molti dicono. Beh, uno che di lavoro se ne intende, diciamo. Molti dicono che è un governo non di grandissimo profilo, in cui il ruolo del Presidente del Consiglio è un ruolo fondamentale. Che dici tu, professore? Beh, il ruolo di Renzi è fondamentale, cioè ha vinto e lui il capo e gli altri devono adeguarsi. Però alcuni compromessi li ha dovuti sopportare. Certamente non era nelle sue intenzioni che la conferma di Alfano, mi pare evidente. No? Infatti, alla fine Alfano... Quindi praticamente con il nuovo centrodestra ha dovuto scendere pesantemente a patti, perché il nuovo centrodestra non ha cambiato di una virgola la sua posizione. E siccome è l'alleato più importante nel governo, praticamente da questo punto di vista Renzi non è riuscito a determinare alcuna discontinuità rispetto a Letta, il che non è poco. Quindi, insomma... capo sì, ma ha già cominciato a pagare qualche prezzo. Diceva che non era l'uomo delle trattative vecchio stile. Le trattative con il nuovo centrodestra le ha fatte, mi pare evidente, dalla composizione del governo. Gli unici che non hanno pagato date sono loro. Intanto adesso forse questo ti può interessare di più, ai beni culturali, al turismo, Dario Franceschini, che è stato spostato, prima si pensava che andasse alla giustizia, cioè un uomo per tutte le stagioni pure lì, Massimo. Beh, Dario è una persona dotata di buon senso, insomma, sì, non è che sia Salvatore Settis o un altro di primo piano nel campo dei beni culturali, è chiaro, però insomma, più o meno, insomma, va bene. Cioè, anche da questo punto di vista voglio dire, nessun grande cambiamento. No, ma al di là di queste questioni. Ecco, insomma, ma metà, lui ha puntato molto sul fatto di metà donne e metà uomini, che per me io mi sono permesso. Vabbè, ma questo è un discorso vecchio come il cuco, ormai non fa più novità per nessuno, perché in ogni composizione di qualsiasi giunta ormai si va a soluzioni di questo tipo. Sì, ma anche lì, scusa, ma non sarà mica un merito. È un modo per agevolare. Sì, ma voglio dire, quello che importa è che non segna alcuna innovazione. Cioè, il problema di Renzi, che è diventato anche il problema nostro, perché Renzi è l'ultima spiaggia del paese, se partisce lui non so cosa possa capitare, insomma, al di là di un 50% per Grillo, non so che cos'altro ci possiamo aspettare. Quindi purtroppo i problemi di Renzi sono i problemi nostri al 100%. E Renzi ha cominciato un governo di questo genere, che complessivamente non è certo questo governo di Superman, no. Ha cominciato però a dare dei segnali in cui lui deve trattare, insomma. Il dato fondamentale, cioè il rapporto con l'alleato, ha ribadito pari la situazione Letta. Questo è il fatto politicamente più significativo, certo. Mi pare. E se ha trattato sulla composizione dei ministri del governo, tratterà su ogni partita, si dovrà mettere al tavolo per dire. Per forza, perché ripeto, il nuovo centrodestra ha detto noi non dobbiamo essere toccati, e lui ha dovuto accettarlo, c'è poco da fare. Tra l'altro, lo capisco perfettamente, però insomma, il grande rischio è questo, insomma, che tra 6-7 mesi, se non riesce a fare la sua famosa, non dico riforma al mese, ma almeno ogni 2 mesi, noi ci siamo giocati anche la carta Renzi. Tra l'altro, non sappiamo se l'altra cosa che aveva chiesto Alfano, cioè non votare subito la riforma elettorale, ma votarla dopo la riforma costituzionale, cioè dire Campacavallo, il Senato, eccetera, eccetera, sia passata, perché se è passata pure quella, perché la mettevano quasi come pregiudiziale, cioè prima si fa quello e poi la riforma elettorale, per non dare a Renzi la possibilità di sciogliere le Camere. Comunque di andare alle Renzi a questo punto, credi a me, Renzi a questo punto non ha nessuna intenzione di sciogliere le Camere. No, lui ha detto un governo fino al 2018. Ma appunto, quindi anche per lui ormai la cosa della riforma elettorale, la battaglia sulla riforma elettorale era attacco a Letta, no? Era mandare a casa il governo. Cioè non gliene importa nulla di fare la legge elettorale adesso. Non gliene importa assolutamente niente adesso la riforma elettorale. Sì, pure questo è vero. Parenzo, che dici tu? No, ma mi sembra evidente che ormai, qualora Renzi decidesse di calendarizzare la riforma elettorale, lì casca tutto dopo un minuto. Lui non ha nessun interesse adesso, questo è stra evidente. Poi ci sono le elezioni europee, amici miei. Cioè, le elezioni europee è un momento in cui tutti fanno propaganda, come è giusto che sia. E sarà un momento terribile per lei. Tra l'altro, a conferma del fatto che NCD esulta, l'unico esponente politico di rilievo che in queste ore, in questi minuti, ha mandato un famoso tweet è proprio Angelino Alfano. Cioè non c'è nessun esponente del Partito Democratico che abbia detto vai, partiamo con questo governo meraviglioso. Invece Alfano qualche istante fa, esattamente 11 secondi fa, ha twittato in questo modo: molto bene la squadra, il nuovo centrodestra non poteva chiedere o desiderare di più per l'Italia. È questa la cosa, cioè Alfano è contentissimo e vi assicuro guarda, che non sapevo di questo tweet di Alfano, ma vedi che è esattamente quello che ho detto. No, ma è esattamente così, cioè non c'è nessun esponente di punta del Partito Democratico che da quando Renzi ha annunciato il governo, cosa che succede sempre anche per una questione di forma, ha detto meraviglioso, stupendo, partiamo col governo e via. L'unico è Angelino Alfano, cioè questa è la. E aggiungerei che sicuramente nel fatto che ha dovuto ricorrere all'esponente delle cooperative, cosa che non mi pare, io non ho nulla contro le cooperative, sono per carità, di tutti loro, però non mi pare di buon gusto, insomma, perché è chiaro che è una. Che c'è un certo conflitto di interesse, no? Certo, assolutamente. Cioè, ecco, in generale, così, molto alla lontana, quello che però vuole, c'è. Insomma. Qui sicuramente Renzi si è beccato dei no in giro per il mondo, non c'è dubbio alcuno. Ma gli è stato imposto da qualcuno, secondo me, non mi pare un amico di Renzi questo Poletti. No, è andato in cerca sicuramente di altre persone, ma che gli hanno detto di no, è chiaro. Però che esponente è Poletti, la Lega Cooperativa? Può essere vicino al mondo del sindacato, della sinistra, del Partito Democratico? PD, chiaramente, se è del Movimento Cooperativo è PD. Sì, no, certo. Va bene, grazie, professore, a presto. A presto a voi, ciao. Saluti. Piero da Roma. Sì, Ragusani. Vai. Io sto brindando perché l'abbiamo scampata bella. Con che cosa l'abbiamo scampata? Barca non è ministro, mister 400 miliardi non è ministro. Vabbè, ma questo si sapeva già da qualche giorno che non sarebbe stato ministro, anche con la nostra telefonata, eccetera, Sì, no, ma la notizia della vostra telefonata è proprio questa, perché il Corriere della Sera ha parlato di tutto, meno che dei 400 miliardi di patrimoniale. Lo stesso ha fatto il Messaggero. Quindi questa è una cosa scandalosa. Ma no, ne hanno parlato, ne hanno parlato, dai. No, no, no, guardi Cruciani, anche il fatto, il Corriere della Sera non ne ha parlato di tutto, che nei 400 miliardi. Il Messaggero, ricordo che la giornalista... Vabbè, comunque, guardi... Sì, vabbè, l'ipotesi della patrimoniale era una cosa molto, molto lontana e comunque, ripeto... l'ipotesi barca magari c'è stata, ma è tramontata subito dopo. Olivier da Torino, Olivier. Sì, buonasera, buonasera. Dica. Senta, volevo soltanto dire che sono felicissimo e sereno, perché tutti quelli che, per cui tifa Parenzo, l'uomo con l'ode nel cagnolino, l'uomo triste con gli occhiali, adesso Renzi, durano 6 mesi e poi vanno a casa. Porta veramente sfiga. Io fossi lui non lo direi a nessuno che tifa per il PD. È veramente uno sfigato. Ma perché? Scusi, non ho capito. No, perché voglio dire, Parenzo è sempre lì che sostiene gli uomini del PD. A cominciare dall'uomo con l'Oden, il cagnolino, poi l'ha seguito l'uomo triste, Letta, e adesso Renzi. Durano 6 mesi e poi vanno a casa, quindi io sono tranquillo, sono sereno, perché lui porta tigna, Parenzo porta tigna. Capito? Porti sfiga. Caro, porta sfiga, Parenzo. Io no, non so il nome di questa simpatica persona, io non tifo per nessuno, segnalo le contraddizioni di quel che trovo e di quel che vedo. Ho detto, e lo ripeto, che oggi è una brutta giornata perché secondo me l'ex ministro Chieng, ma Bonino, ma in particolare la Chieng, mamma mia, sono, ma tu fai il tifo per delle, fai il tifo per delle persone, fai il tifo per non faccio tifo, c'è una persona qui di Salerno che ti vorrei immediatamente passare, che tra l'altro è un grande ascoltatore, lei si chiama? Mario Trezza, signor Mario Trezza, venga un attimo fuori, sennò qui non si sente un cavoletto di Bruxelles, venga fuori dal suo negozio. Allora, signor Trezza di Salerno, che vuole? Un'analisi molto precisa sulla questione Renzi. Me la ripeto. Ecco, velocemente, Trezza, che dice? Qual è? Trezza? Cruciani, buonasera. Ecco, Mario Trezza, mi dica. No, volevo dire, io penso una cosa, che Renzi ha fatto fuori a tutti. Sì. Ha fatto una, per me ha fatto una porcata. E allora? No, ecco, non metti, già lo metti in difficoltà, già lo fai fare figuracce. No, ha fatto una porcata. No. Per me ha fatto una porcata. Ma lei è un elettore lei è un elettore del Partito Democratico? No, Avrila no. E allora che ce frega? Pubblicità. La Zanzara. Chi ti ho chiamato questa sera? Chi ti ho chiamato? L'uomo che insieme a noi ha sconvolto la politica italiana degli ultimi 20 giorni. Chi può Nicky essere? Vendola. No, che Nicky c'entra Nicky Vendola? Chi c'entra? Chi è che ha sconvolto la politica italiana negli ultimi 20 giorni? La signora F. Ball. No, F. Ball non c'entra niente. No, la signora F. Ball non c'entra. Dimmi. Secondo te, indovina, dai, l'uomo insieme a noi, chi è che ha sconvolto la politica italiana negli ultimi 20 giorni? Lei le piace il governo Renzi? È meno di un rimpasto. Lei è? Aldo Vassola. Chi è? Aldo Vassola. E cos'è Aldo Vassola? Ah, il suo nome è Aldo Vassola. E chi ci fa qua a Salerno? Io sono un amico di Guglielmo Vassola. Oh, vabbè, ma che traffico bloccato? Ma chi hai chiesto? Non ho capito, chi l'hai chiesto? Scusi signora, ha bloccato il traffico per un'intervista della Zanzara. Parenzo, lo sai chi c'è qui? Sei quello, l'uomo che insieme a noi ha sconvolto la politica italiana negli ultimi 20 giorni. Lo sai chi è? No, come faccio a immaginare? Vabbè, dai, un po' di fantasia. E con noi il mitico Alan Friedman. Buonasera, buonasera Zanzara. Eccoci qui, grande, ammazziamo il gatto pardo Rizzoli. Eccoci qua, buonasera, buonasera. Alan Friedman, giornalista che prima ha svelato, cioè perché è stato l'uomo, caro Parenzo, che insieme a noi ha sconvolto la politica italiana. Prima ha per la questione l'intervista a De Benedetti e al signor Prodi e ha scatenato la bagarre. Anche a Monti, anche a Monti sulla formazione. Ho Monti, ragazzi. Sul governo, sulla formazione del governo Monti, quando ancora Napolitano, Monti, quando ancora c'era il governo Berlusconi nella famosa estate del 2011. Poi siamo intervenuti noi e è scoppiata un'altra bomba con la vicenda sempre di mezzo dei Benedetti, cioè, però Friedman, come mai c'è sempre in mezzo Benedetti? No, io sono andato da Benedetti e mi ha parlato delle sue vacanze in St. Moritz e che come Monti è venuto a trovarlo e poi quando mi ha detto che Monti è venuto durante l'estate a chiedere consigli su cosa fare sulla proposta di Napolitano a prendere il posto di Berlusconi e essere disponibile, sì, ho detto qui qualcosa non quadra. Cioè, poi quando ho visto che Napolitano il 5 febbraio ha detto che lui ha fatto le consultazioni a novembre, il nome di Monti è venuto fuori a novembre e Monti invece mi ha detto in video che era 5 mesi prima, io mi sono trovato con 2 versioni diverse della stessa storia, diciamo una incongruenza, e ho deciso di documentarlo. Di andare a fondo. Allora, caro Parenzo, siccome è l'uomo del complotto dell'estate del 2011, io vorrei che Friedman ci dicesse, secondo lui, facciamogli qualche domandina un po' piccante. Allora, secondo te Renzi ha deciso di far fuori Letta quando? Tu che sei l'uomo dei complotti, l'uomo del grande complotto del 2011, Alan. Con chi stai parlando? Io non sono uomo del complotto, io sono un giornalista che mi documento. No, ma lo so che non sei uomo del complotto, però sei l'uomo che ha raccontato, diciamo, quello che è stato definito il complotto per far fuori... Sa Cruciani cosa ha detto Paolo Miele nella presentazione del mio libro? Ha detto chi grida complotto nella pubblicazione di questo libro, chi parla di complotto... O è un cretino o è un cretino in malafede. No, però lui pensava al complotto dei giornali in quel momento, non al complotto, diciamo, dell'estate del 2011. Vabbè, comunque, qual è la domanda? Chi ha fatto fuori chi? No, Renzi, secondo te, quando ha deciso di far fuori Letta? Questo ma perché fa fuori? Di prendere il suo posto, intendi? Sì, ha deciso da tempo o ha deciso proprio... Non credo, perché tutto sommato... Era un programma che Letta doveva tornare da Sochi e vedere Napolitano. Poi improvvisamente abbiamo visto questa sera del 10 febbraio in cui Renzi è stato improvvisamente lì al Quirinale. Io ero sorpreso con tutti perché pensavo che Letta sarebbe andato avanti debole, timido ed inefficace per un bel po' di tempo. Ma tu sei renziano un po'? No, io sono americano, non ma americano. Fai il tifo per Renzi? Non mi schiero con la politica in Italia, posso dichiarare che ho lavorato nella Casa Bianca per i Democratici in America, ma in Italia ho imparato di non schierarmi con destra e sinistra. Comunque sai, Alan, che qualcuno ha detto di te che sei un uomo della CIA, chi è stato? Formigoni, no? Roberto Formigoni ha detto che sarei un uomo dei servizi americani, vorrei che lui vieni a dire queste cretinate nella mia faccia. Sì, figuriamoci, c'è l'uomo dei servizi americani, ha detto... Perché chi ascolta Formigoni? È un uomo di ieri. Beh, però ancora, vedi, con NCD hanno voce in capitolo con Renzi, cioè... Non credo che Formigoni è la... molto importanti delle... Ma perché ha detto questa cosa, secondo te? Per denigrare? Perché forse ha complotti nel suo cervello, non lo so. Forse dici complotti ce l'ha nel cervello. Parenzo, che stai facendo? Ma... No, per curiosità. No, voglio dirti questo. Tu imiti bene Alan Friedman, tra l'altro. No, aspetta, ti voglio prima dire questo. In un bar di Salerno, sentendo la zanzara, mi ha riconosciuto, ha messo le casse fuori sulla strada e tutta la strada di Salerno sta sentendo in diretta. Sì. Ecco, Salerno tutta via Manzo a Salerno, venite qui, la zanzara live dalla strada, addirittura con le casse hanno messo fuori. Questa è la città che ci accoglie. Allora sentiamo Crozza su Friedman, però, perché è stato eccezionale, Crozza su Friedman spettacolare, spettacolare. Non ce l'abbiamo Crozza su Friedman, che ha detto ci deve essere uno come Stanlio, come Ollio, a spiegarci la politica in Italia, Friedman, che dici? Io sono qui a ascoltare, io amo Maurizio Crozza, è fantastico. Beh, sei stato contento, no? Maurizio Crozza ha cominciato a farmi tanti anni fa, vuoi sentire Alan Friedman che imita Crozza, che imita Friedman? Vai. Lui ha detto, lui ha fatto un programma che si chiamava Friedman anni fa e ha detto una cosa tipo, e adesso vediamo un grafico con il dolore che va su su su, blu blu blu. E mi ha imitato molto bene, ero molto lusingato. Senti, invece, ma qual è questa storia che tu hai incontrato Berlusconi? C'era Dudu che ti azzannava il piede. No, nel libro, io nel capitolo su Berlusconi, nel momento in cui stavo intervistando Berlusconi a Palazzo Grazioli, che era il 25 ottobre, un'ora e mezzo prima della arrivo di Alfano, e Berlusconi mi stava spiegando che Alfano era un utile idioto, un idioto inutile. Sì. Che avrebbe fatto la fine di Fini, sì. Così diceva Berlusconi. In quel momento avevo nella mia mano sinistra un crodino e poi c'era Dudu che è arrivato alla mia gamba destra e ho trovato Dudu molto presente sulla mia gamba destra. Che faceva? Leccava? Che faceva? Sì. Ma ha messo il suo muso contro il mio ginocchio, io amando i cani ho accarezzavo. Senti, tu che sei un uomo della CIA, secondo Formigoni, che previsioni fai per il governo Renzi? Quanto regge? Che governo è? Hai visto, no, in televisione? Guarda, so che alla Zanzara si parla in modo spiritoso, ma io credo che per una volta, posso dire per 10 secondi una cosa seria? Di una cosa seria, questo ti ho chiesto un parere. Ci provo, lo so che un parere sul governo. Non voglio far cadere il vostro ascolto dicendo una cosa seria. No, ma ti ho chiesto un parere sul governo Renzi, per cui vai. Il mio parere sul governo Renzi è che questo paese è a terra. Che siamo al momento in cui gli italiani sono stufi, sì, della vecchia bla bla. Ci vuole una ricetta per l'economia che dà una scossa. Ci terapia vuole shock. Uno shock, una serie di riforme del mercato del lavoro, ci vuole una guerra contro la burocrazia. E io non vedo, io non mi schiero politicamente, ma io non trovo un'altra persona nella politica italiana in questo momento, all'inizio del 2014, che rappresenta la discontinuità. Quindi io dico in questo momento, sì, non mi schiero, ma auguri perché a Renzi, perché se lui non la fa, Italia rischia di fare una brutta fine. Senti, ma la Bonino fatta fuori dal Ministero degli Esteri, che ne dici? A me piace Emma Bonino, quindi mi dispiace, però il suo successore è anche qualificato, quindi Vabbè. È importante avere donne. A me piace che ci sono 8 donne su 16. A me non me ne frega niente. L'Italia che bisogna avere. A me invece non me ne frega niente, penso che sia una cosa demagogica, le persone devono essere al posto giusto. Certo, devono essere qualificati, ma questi sono preparati, queste donne. Vabbè, comunque chiudiamo con Crozza Friedman. Ciao Alan, ciao. Ciao. Comunque oggi Renzi e Letta si sono visti a Palazzo Chigi. Cosa si siano detti non lo sappiamo ancora. Lo scopriremo nel prossimo libro di Alan Friedman. Porca puttana, un signore che pare così. Ma è possibile che se vogliamo sapere come sono andate... le cose in questo paese dobbiamo affidarci a uno che parla come olio. Non mi mordere il dito, non mi macchiare il vestito, ma non mi mordere il dito, la voglia ce l'ho. Gli amici della Zanzara di solito sono sempre molto seri. Non mi macchiare il mio vestito e non mi mordere il dito, la voglia ce l'ho. Vabbè, adesso basta, divertiamoci un po', mi sono rotto le scatole, caro Parenzo, di questo governo, i giudizi di questo governo, quello che pensa quello che pensa quell'altro, sembra che non siamo una trasmissione come le altre, chiedere i pareri sul governo, mi sembra, sono tornato indietro di 50 anni, ciao belli, De Montis, il mitico De Montis, intervenuto a Radio DJ oggi, un ascoltatore finto, ovviamente, di Radio 24 della Zanzara. Pronto, parlo con la Zanzara, Radio 24. No, è Radio DJ questo. Allora, il mio nome già mi conoscete, sono Giambattista De Montis, chiamo da Fuji, provincia di Cagliari, a Cagliari. Innanzitutto, vabbè, complimenti per il programma. Loro sono molto bravi. Dottor Cruciani, complimenti. Grazie. Ecco, da come ho capito è lui che porta la baracca, Cruciani porta avanti la baracca. Perché anche Parenzo, è lo scherzo. No, Parenzo, lei si limita a leggere il giornale, gioca su Sudoku. Qua me l'ha detto uno in un bar a Fuji. Ma ha detto, guarda che Parenzo è lì che non fa un cazzo. Comunque questa è una legge. Dottor Cruciani, ho chiamato perché ho saputo che in giorni scorsi avevate ospite il trans F. È vero, c'è stato. F. Ball, che si chiama di cognome come il demonio, all'anagrafe è uomo, sì, ma da fuori è un pezzo di fagianella, niente male. Sì. L'unica cosa è che questo F tra le gambe ha ancora il pistolino. il trans è una donna a tutti gli effetti, che gli è rimasto il pistolino. Lei, dottor Cruciani, me lo deve saper dire, perché gliel'ha sbattuto sulle spalle. Ho visto una foto di lei che di F che ciondolava il ciondoletto sulle spalle. Non mi fa intendere, dottor Cruciani, non mi fa intendere. Sono padre di famiglia, certo, sono una persona per bene. Non ho telefonato alla Zanzara per fare giochi di parole, volgarità su una vicenda quanto complessa. Certo. Come, diciamo, la trattenuta fiscale nei confronti del transessuale. Sì, certo. Però a quanto pare questo si è tirato fuori l'uccello in studio. Voglio dire, io ho un figlio di 16 anni. Ho capito, sì, che tra l'altro lo vado a prendere con la mia macchina, vi ascolta. Certo, se per caso salutiamo. Un giorno mi diventa riccone, gli stacco la testa a morsicate. Deve essere così. Che Cruciani ha tutte le sinapsi attive, sì. Lei Parenzo un po' meno. No, guardi che le mie sinapsi sono a postissime, non si preoccupi. Dottor Cruciani, pare che non siamo né Cruciani né Parenzo, questa era. Ora la saluto, ma prima mi deve confermare una voce che arriva dal bar Ippopotamo, dove sono tutti i suoi fan. Sì, vediamo, praticamente qua dicono che quando il trans F ha tirato fuori l'uccello in studio, il dottor Parenzo ha fatto cadere volutamente il cellulare per te. No. Quanto ce l'aveva? Guarda, io non sono Parenzo, neanche lui Cruciani, certo. Questa è Radio DJ, non lo sappiamo noi. Ma che cazzo, ditelo prima, ho parlato 40 minuti a niente, cazzo. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Torniamo al motivo della mia chiamata, a parte gli scherzi, dottor Cruciani. Sì, sì. Da quello che mi è sembrato di capire, questo trans F protesta perché non vuole pagare 400.000 euro di tasse. Alla faccia, quanto guadagna? Quelle se ne è passato di acqua sotto i ponti. Ma dico, ma F, sei mai venuto nelle campagne in Sardegna a lavorare? F, se mi stai ascoltando, sappi che qui in Sardegna se tiri fuori l'uccello te lo mangiano le capre. Io di lavoro produco pecorino, non mi sognerei mai di andare a Radio 24 da Parenzo, da lei, dottor Cruciani, sì, che siete due persone per bene, sì, a tirare fuori l'uccello. Ma sei pazzo, ci sono altri modi di protestare. Sei ancora a casa, Simo? Quanto siete stupidi, siete proprio insopportabili. Cristian, provincia di Livorno. Pronto, buonasera a tutti. Dimmi, dimmi. Niente, volevo dire che questo governo secondo me durerà poco, perché è il governo della politica dei compromessi, dove ha fatto bene Grillo a trattare così Renzi, perché non si meritava altro. E dico anche che Renzi durerà poco e farà anche la figura con tutti gli italiani, perché non riuscirà a fare niente di quello che ha sempre promesso. Tra l'altro sono cose che ha anche rubato dal programma elettorale di Grillo, sicché insomma. Sì, ma adesso questa cosa che Renzi ha copiato dal programma elettorale di Grillo, ma quali, certo, sarebbero? Quali sarebbero? Per esempio, me ne dica una. No, allora, Renzi soprattutto è un personaggio che è stato montato dai media. Vabbè, e d'accordo, anche è stato montato dai media, non è, certo, che, non è che i media montano tutti, comunque poi... No, non è che montano tutti, però cosa vuol dire? Cioè, chiaramente Grillo è, diciamo, un cavallo di battaglia. Preso... Sì, ma quali sarebbero, lei dice, i punti del programma di Grillo che Renzi ha copiato? Quali? Allora, i punti che ho copiato innanzitutto sono l'abolizione intanto Civati a Sky TG24 ha detto: contro questo governo saremo molto duri, non si capisce se poi voterà la fiducia oppure no, eh. 5 Stelle, però Civati lo sostengo, perché... Ma io non ho capito quali sarebbero ancora questi famosi punti del programma di Renzi, che Grillo avrebbe potuto... dei rimborsi elettorali, poi ha promesso anche... Ma la rimozione dei rimborsi elettorali non è che è un cavallo di battaglia solo di Grillo, cioè non è che il primo a dirlo è stato Grillo, attenzione. Cioè non... No, ma io intendo nel complesso, oltretutto alcuni punti del programma, anche la forma, il fatto di andare col camper, il fatto di andare in bicicletta... Ma lei ripete le stesse cose che ha detto Grillo l'altro giorno nello streaming alla Camera con Renzi, Grillo, su... Appunto, ma non faccia il pappagallo di Grillo pure lei, non faccia il pappagallo di Grillo. No, non è che il pappagallo, cosa vuol dire? Cioè, chiaramente sono fatti che sono, non sono soggettivi, sono oggettivi. Ma quale oggettivi? Claudio da Livorno, Claudio, guardi, ci sono molti rimproveri da fare a Renzi, certamente non quello di aver copiato il programma di Grillo. Claudio non c'è, Francesco da Trani. Ciao, ciao Beppe. Dimmi, dimmi. Allora, senti, io stavo in macchina, ascoltavo la lista dei ministri. Allora, ha avuto il coraggio Renzi di far fuori quel poco di buono che c'era nel precedente governo. Per dirne una, il ministro Brahe, il professor Brahe, un ottimo esponente della sinistra, che voglio dire ha fatto benissimo per quello che ho potuto seguire nel suo... Io non lo so se ha fatto bene o male, cioè, non è che senza Brahe si muore, ne ha fatto un altro adesso, vabbè. Franceschini, a me questo governo tra l'altro mi fa schifo, orrore. Ma sai, fa schifo anche a me, io dopo 20 anni non voto più PD, ti dico solo questo, tra l'altro. Cioè l'unico contento è Alfano, cioè, vi rendete conto o no che l'unico contento che è Angelino Alfano, che ha mantenuto tutti i suoi posti? Bravissimo, infatti l'unica cosa che doveva fare è togliere il ministro dell'interno da Alfano. Oh, è stato capace di lasciarlo. E dai, pazzesco. Grazie Francesco, grazie. Vado a stare svegli per amare. Caro Davide, nei giorni scorsi ha fatto un appello alle forze di polizia, alle forze dell'ordine, soprattutto la Guardia di Finanza. È con noi Paolo Barnard, economista, giornalista, buonasera. Ehi, buonasera. Ciao Paolo, allora dimmi innanzitutto una cosa, che cos'è questo appello? Che cosa dovrebbero fare le forze di polizia, gli italiani in parte, ma soprattutto le forze di polizia? Allora, siamo in un regime di colpo di Stato finanziario e siamo in un regime di colpo di Stato politico. Tu sai che i due trattati europei, il European Semester e il Trattato di Lisbona, hanno esautorato il Parlamento italiano, la Costituzione e le leggi di bilancio italiane, per cui questo è un golpe politico in piena regola attuato dalla tecnocrazia europea. E poi c'è un golpe finanziario, vabbè, questo lo sappiamo, è il terzo governo che segue il diktat della Troica. L'Italia è stata esautorata di qualsiasi cosa possa fare un paese sovrano per tutelare i propri cittadini. Di fronte a un golpe si fa appello alla Costituzione del 1948 e alle forze dell'ordine e si dice carabinieri, polizia, guardie di finanza, esercito devono intervenire a tutelare la Costituzione italiana. Ma in che modo? Scusa Paolo, in che modo? Spiegami. Cioè, perché prima tu hai detto in una prima fase con una disobbedienza civile, in particolare alla Guardia di Finanza, che non può affossare, uccidere decine di migliaia di famiglie italiane con la chemiotassazione dei golpisti, cioè, tecnocrati europei. Cioè la Guardia di Finanza cosa deve fare? Scusa. E in secondo luogo anche una presa di posizione del vertice delle armi per ricordare al presidente, all'ignobile presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che deve seguire la Costituzione del 48 violata in 17 articoli dai trattati europei. Cioè, scusami un attimo, allora la prima cosa deve essere il fatto che la Guardia di Finanza non deve fare le ispezioni, diciamo, fiscali alle aziende, capannoni, eccetera eccetera, giusto? Ecco, la media impresa, botteghe, negozi, assolutamente evitare, come ha detto un alto ufficiale della Guardia di Finanza a me, di cui non farò mai il nome neppure davanti al magistrato, mi disse: io disobbedisco agli ordini del Ministero per non mandare al macello migliaia di famiglie della mia regione. Poi che cosa devono fare? Un appello congiunto per che cosa? Per contro Napolitano? Questo mi sembra eccessivo adesso, francamente. Che poi la Guardia di Finanza possa avere, diciamo, un occhio di riguardo per le imprese, quello può darsi che sia giusto, non lo so. Però addirittura tu pensi che le forze dell'ordine debbano fare un appello a Napolitano, oppure addirittura un vero e proprio colpo, cioè occupare il Quirinale? No, non un golpe. No, il problema è che tu sai che non abbiamo più una classe politica né un Parlamento in grado di difendere il paese e la Costituzione del 1948. A questo punto chi rimane? Rimangono i cittadini, ma sappiamo che le rivolte alla 1848 non vanno più di moda, perché abbiamo Sky TV e le partite, il Milan, eccetera. A questo punto, seriamente parlando, devono intervenire le armi della Repubblica Italiana, che hanno giurato fedeltà alla Costituzione, ricordare al Presidente di riportare il Paese alla sovranità, altrimenti ci vuole un impeachment, ma non l'impeachment dei tuffi di Beppe Grillo, sto deficiente che l'ha sbagliata tutte, un vero impeachment, perché Napolitano è il terzo golpe che fa in Italia. Mi pare che tu non... 17 articoli della Costituzione. Mi pare che tu non hai nessuna fiducia nel governo Renzi, come gli altri, un fantoccio in mano all'Europa, mi sembra, no? No, non ti sembra, lo è. Accidenti, sono partito da Padoan, mi sono fermato, non ho voluto più leggere niente. Perché Padoan che cos'è secondo te? Scusami. Ma Padoan è la continuità dei progetti di economicidio, di tassazione delle austerità imposte dai tecnocrati europei che nessun italiano ha mai votato. Cioè, se tu guardi la storia di questo uomo, le dichiarazioni che ha fatto all'AMF in sede europea, in sede di Ecofin, eccetera, eccetera, questo è un uomo che è in linea totale con taglio alle pensioni, prima cosa. Taglio ai salari, le solite riforme che vogliono dire taglio alla spesa pubblica, sanità, eccetera, eccetera, e liberalizzazione e privatizzazione, cioè svendita a prezzi trattati ai tedeschi che stanno facendo shopping in Italia. Allora, devo chiamare l'ambulanza secondo te, Parenzo, dopo questo appello alle forze dell'ordine e alla finanza da parte di Paolo Barnard? L'ambulanza l'abbiamo già mobilitata da Salerno, sta partendo. Mi dispiace che non ci sia più Corrado, quello che faceva un programma che si chiamava La Corrida, Dilettanti allo sbaraglio, un programma strepitoso, perché il signor Barnard meriterebbe di andare là ora a fare addirittura un appello, guardia di finanza, la polizia, urlare al golpe. È che questo signore, che è molto simpatico, e dal signor Paragone ci fa le sue lezioni di economia, in questo caso, con tutto l'assoluto rispetto per le autorità civili, politiche e militari, ha detto una cazzata. Ma quale sarebbe la cazzata? L'appello alle forze dell'ordine? Ma l'appello alle forze dell'ordine. Però se uno è convinto come Barnard, lui però è puro delirio. Lui è coerente perché dice. È coerente con la follia. Si può essere coerenti con la follia, certo. Io qui ho una folla di persone che sono venute in via Manzo a Salerno per seguire in diretta la radio, la Zanzara, e io vi saluto. Dite ciao a Cruciani tutti insieme. Dì un grosso ciao a Cruciani. Vabbè, dai, allora. Ecco qua. Li salutiamo anche noi. Il popolo è con noi che dice il signor Barnard fatti curare. Ma veramente non l'hanno detto, l'hai detto tu. Barnard vuoi rispondere a Parenzo che dice che devi farti curare per Barnard parla a nome di un'economia che ha cent'anni di storia, di personaggi che tu non hai mai sentito nominare. In secondo luogo ti ho detto e ti ripeto che i trattati europei che ti nomino, il trattato di Lisbona e l'European Semester, anche il Fiscal Compact, hanno abolito la sovranità del Parlamento italiano e della Costituzione della Repubblica Italiana. Amico, si chiama Golf. Amico, l'hanno deciso i nostri parlamentari. È una costituzione in grado di funzionare. Lo vuoi capire? Dove sei nato? Ok, 1973, Cile. 2011 Italia, è un golpe. Allora a questo punto, nel nome della Costituzione, non nel nome di una dittatura militare, nel nome della Costituzione, le armi del paese hanno il diritto di difendere la Costituzione e devono farlo. Impeachment per Napolitano se non obbedisce. Però scusami Barnard, con questa cosa rischi tu, con questa cosa rischi seriamente, cioè facendo un appello così in televisione prima alla gabbia e adesso da noi alla radio addirittura un appello alle armi del paese, cioè alle armi. Non c'è rimasto più nessuno, Luciani, non c'è rimasto più niente. Scusa, però tu. C'è il PD, non ho capito. Però tu non puoi, scusa, sì, non ti voglio pigliare. Chi difende la Costituzione italiana? Non c'è più nessuno. Grillo dice che la difende, per esempio, che la vuole difendere contro Napolitano, contro il golpe, contro il terzo governo non eletto dai cittadini, eccetera, eccetera. Ma tu non ci credi in Grillo, pensi che sia tutta un'operazione anche economica con dietro Casaleggio o no? No, Grillo non esiste, esiste la Casaleggio Associati e la sua associazione ai poteri forti dell'Ambrosetti, di Passera, di Monti, di Bonrompui, di Confapri, di Colomban, un uomo con 5.000 dipendenti, eccetera. Grillo non esiste, esiste la Casaleggio Associati, lasciamo perdere una perdita di tempo. I grillini, quelli come ho detto in trasmissione, non li svegliava neanche Gesù Cristo in Palestina, e non c'è niente da fare. Qui stiamo parlando di una roba seria, capito? Qui stiamo parlando dell'esautorazione della Costituzione italiana, sentenza 1.91 della Corte Europea di Giustizia, Trattato di Lisbona e Semestre Europeo e Fiscal Compact. Sono trattati, Parenzo, trattati, la mattina non aprire Topolino, la mattina apri i giornali. Però scusami Paolo, com'è compatibile questa tua posizione quando scrivi e parli di sesso su Twitter? Spiegami, sono compatibili queste due cose secondo te? Paolo? È sparito? Che ha fatto? Ma è sparito Barnard? Zanzara! C'è una zanzara tigre. Certo che è incredibile anche la nomina, ragazzi, di Federica Guidi, ministro dello sviluppo economico. Sicuramente sarà bravissima. Però nel passato, Parenzo, non so se ti ricordi, nel passato sì, era stata accostata molte volte a Berlusconi, a Forza Italia, signora Guidi. Certo. Comunque. Ma tanto non è che... Cioè, in questo caso, questo conto che stai facendo non è che vale molto. L'hai detto prima, la notizia è che in questo caso Alfano ha vinto. Alfano ha la golden share di questo governo, Berlusconi rosicherà un po' e proverà in tutti i modi a far cadere questo governo con l'aiuto dei grillini. Ma chi l'ha detto proverà a far cadere il governo? Che ne sai? Ma non è vero, al contrario. Quello vuole giustamente la legge elettorale al più presto e quando si farà, come la vuole lui però, che è diversa da come la vuole Alfano, questo lo devi spiegare se sei onesto. Allora, 8 sono del PD, 3 di NCD, 1 di Scelta Civica, 1 dell'UDC e 3 tecnici. Questo è il governo Renzi. Sai che mi dispiace per Andrea Romano, però. Ma chi se ne frega di Andrea Romano? Mi dispiace per Andrea Romano, ma io non capisco. Tu hai tutti questi. Mi dispiace per. Ma io mi dispiace per altre cose, no? Perché Andrea Romano non è diventato ministro. Io voglio capire se tu vuoi mandare l'ambulanza con gli infermieri a Barnard, che è ancora collegato, perché ha detto che ci vuole una rivolta anche. No, delle armi. Adesso, scherzi a parte, prima ho detto l'ambulanza, quella sta già arrivando. Secondo me qualche magistrato dovrebbe aprire assolutamente un fascicolo. Su cioè, Barnard, perché? Perché? Ma come perché? Ma fai il finto, fai lo gnorri, fai. Questo signore, simpatico anche per carità, ma sta incitando da radio nazionali, TV nazionali, dai suoi blog, dai suoi siti, non lo so neanche che cosa ha, a una rivolta da parte delle forze armate, delle forze dell'ordine. Questo è il dato di fatto. Lascia stare Maastricht, lascia stare il Fiscal Compact, lascia stare il libero Parlamento che ha deciso di votare quei provvedimenti e meno male che c'è l'Europa, meno male che c'è la Merkel, perché altrimenti stavamo già con l'acqua alla gola, cosa che siamo allora? Ancora. Ma al di là di queste mie considerazioni che possono contare il tempo che possono valere il tempo che trovano, un magistrato in Italia, in base a quello che lui ha detto qui, fai risentire quel pezzo di registrazione in cui ha chiesto alle forze armate di intervenire. Fai risentire quel pezzo. Nel nome della Costituzione, Parenzo, Costituzione. Paolo, vai, rispondi. Nel nome della Costituzione del 48 non è... Non è un certificato medico, sana e robusta Costituzione, è un'altra cosa, è la Carta Suprema dello Stato. Vabbè, scusa, però Paolo, chi decide che la Costituzione è stata violata? Non è che lo puoi decidere appunto. Tu. Non lo decido io, ve l'ho detto, la Costituzione è stata, la Costituzione italiana è stata messa in minoranza dal Trattato di Lisbona, che sancisce con una sentenza della Corte Europea di Giustizia 1/91 che la legge europea è superiore alle Costituzioni dei paesi nazionali. Cioè, il governo di Monti ha violato con Napolitano 17 articoli della Costituzione italiana. Abbiamo una disoccupazione al 27% reale con una perdita di ricchezza di 800 miliardi quando l'articolo 1 della Costituzione italiana dice questo è un paese fondato sul lavoro. Che cosa altro devo dire? Napolitano o lo costringono ad applicare la Costituzione o lo arrestano. Non c'è altra scelta. Scusa, ma la rivolta armata non la contempli? No, la rivolta armata non la contempo, semplicemente le armi sono rimaste gli unici ancora in grado di difendere la Carta Costituzionale. Non, la politica non lo fa più, non c'è più nessuno che lo fa, ma neanche Grillo. Scusa, ma chi è questo? Chi è? Chi è? Delle cretinate, ha paura. chi è questo finanziere, cioè alto ufficiale della Guardia di Finanza, che ti ha detto che lui non va più a fare le ispezioni per il fisco perché vuole disubbidire allo Stato in questo modo, allo Stato predatore in questo modo? Io sono un giornalista serio, lo faccio da 27 anni, le mie fonti non le rivelerò mai. No, ma è un ufficiale, è un ufficiale, come dire, un ufficiale importante? È un ufficiale importante della Guardia di Finanza. Sono stato convocato al termine di una mia conferenza, sì. Non sapevo neanche dove mi portavano e mi è stato detto questo, ma non lo rivelerò mai. Ti è stato detto esattamente cosa? Spiegami esattamente cosa. L'ho detto, dottor Barnard, io mi rifiuto di mandare i miei uomini a fare le ispezioni nelle botteghe, nel capannone degli artigiani, nelle piccole e medie imprese, perché so che facendo così oggi mando al macello migliaia di famiglie e non lo posso fare. Scusa, perché su Twitter scrivi che è un pisello maestoso? Che c'entra questo? Ma chi? No, Barnard. Ho detto che questa è parte della provocazione che faccio sui social network. Ah, io sono una persona poliedrica, caro. Cioè, ho tante cose nella vita. Mi sono occupato di politica internazionale, Palestina, terrorismo. No, questo lo so. Mi occupo di anche di agli ammalati. Anche di mi sesso. Occupo anche del grottesco dei social network. E dunque tutte le cose sessuali che scrivi sui social network è tutta, diciamo, una provocazione? È tutto un gioco grottesco. Va bene. Ma grottesco per riportare questa gente parte... a un po' di sanità mentale. Un po' di sanità mentale. Vuoi riportare la gente alla sanità mentale, capito, Parenzo? Francamente, Barnard, questa cosa che hai scritto sul tuo arnese, diciamo, è la cosa più seria che hai scritto, francamente. Rispetto a tutto il resto, io la ritengo la cosa più lucida che tu hai scritto. Poi. Però io ho detto una cosa, io dico una cosa: se uno la pensa come Barnard, e ha tutto il diritto di pensarla come Barnard, cioè che ci hanno fottuto la sovranità, che non possiamo decidere più niente. Ma non puoi fare l'appello alle forze dell'ordine a intervenire contro Napolitano, ma sei matto anche tu adesso, impazzito completamente, diventato. Io do dei dati sull'ordine repubblicano, Parenzo, dati, do delle cifre, dei dati. Ma dai, non siete abituati a questo voi. Guarda, sei più credibile quando dai indicazioni sessuali, secondo me. Va bene, Paolo, a presto, ciao, ti saluto. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Oh, Andrea da Bari, Andrea da Bari. Intanto mi dispiace molto che hanno fatto fuori il signor Gratteri, ripeto, mi dispiace molto perché era a favore, era contro amnistia e indulto per la costruzione di nuove carceri. Ma puoi fare un appello, per cortesia? Ma per chi? Puoi fare in chiusura di trasmissione un appello al sindaco De Luca perché ci apra, ci dia. Senti, però all'Italia intera, quello che tu stai facendo a Salerno, cioè il fatto, raccontalo stasera, quando farai Matrix questa sera, racconterai che non ti hanno fatto aprire la sede del Partito Democratico, dove fare questo collegamento. No, io non però... mi hanno fatto, perché c'è un gruppo di occupanti, tra cui un deputato della Repubblica e una senatrice. Beh, ma non me ne frega, a noi non ce ne può fregare. L'onorevole Vaccaro, ma come non te... ma perché sei così irrispettoso? Ma non sono irrispettoso, perché? Semplicemente perché non c'è... Perché dici chi se ne frega di un deputato della Repubblica? Perché devi fare così? Vabbè. Perché sei così, Cruciani? Perché? Sgarbi scatenato all'aria che tira. Pensare a fare grandi cose con piccoli uomini. Sono dei piccolissimi, inerti, delle lumache, proprio dei nani. E lui è uno che non ha mai espresso un pensiero in vita sua. Ora che voglia fare, cosa deve fare? Grandi cose. Deve fare il vicepremier e ministro degli interni. Vicepremier. Ma le farà Renzi le grandi cose. Però sì, certo non può fare quello che ha già fatto, devono cambiare i ministeri, possono mettere alle pari opportunità. Può andare bene lì, adatto per le pari opportunità. E invece alle pari opportunità, anzi no, c'è o non c'è il ministero delle pari opportunità? Boh, sono scordato. Le pari, spero che l'abbiano cancellato pure quello, Le pari opportunità. Boh. Vabbè. Sgarbi. Inventarsi questo cazzo di legge elettorale che c'è perfettamente, perché il vicepresidente della Consulta Mazzella, che tu puoi invitare, dice che la miglior legge possibile è il Porcellum emendato, con le preferenze che questi stronzi non vogliono mettere. Non diciamo parlare, il premio di maggioranza sopra la Consulta dice una cosa e fanno il contrario, sono le facce di merda. Mi hanno costretto ad andarmene attraverso 'ndrangheta che ha sciolto il mio comune. grazie ad Alfano e alla Cancellieri, un'altra totale incapace, una stupida assoluta, priva di ogni logica. Allora. Maroni, Alfano e Cancellieri sono peggio della mafia. Scatenato, Maroni, Alfano e Cancellieri, peggio della mafia. Addirittura dice che Alfano è un membro della mafia organizzata. Senti, senti. Non puoi fare della finta antimafia facendo credere che Riina è ancora potente. È una menzogna, lo Stato è la vera mafia e la scarica su quelli che non lo sono. È una tragedia. Sto parlando del fatto che Renzi... Io sto dicendo che governa con Alfano, che è un uomo incapace, traditore e privo di qualunque vera lotta alla mafia. Quindi la mafia è in questo governo, attraverso il signor Alfano, esponente della mafia organizzata. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Una grande perla del nostro amico Pellegrin. Senti che dice sulla Zanzara, Parenzo. Servi di Roma fuori. Mi infastidisce, francamente, è stomachevole quando vengo a sapere qualcuno. Ascoltavo il Ciociaro, Cruceni, David, Parenzo e poi mi sono messo a ascoltare te. Magari anche per farti i complimenti, però no, non fatelo, e se lo fate non ditemelo, ripeto, sarebbe come scoprire che la donna con la quale hai fatto l'amore mezz'ora prima è andata a letto con un lebbroso, e chiedo scusa ai lebbrosi, ma ironia questa. Radio Cuckoo's Clan, cosa volete aspettare? Quello che passa il convento. Andiamo avanti allora. E Nabucco salirà. Oh, mi confermano che non c'è nessun ministero per le pari opportunità, per fortuna. Via anche quello. Ora vorrei dire due paroline a un signore che si chiama Luigi Guiso ed è un bravissimo economista, così dicono, un bravissimo economista, che scrive sulla voce.info. Professore di economia alla European University Institute Firenze, è stato alla Banca d'Italia, eccetera, eccetera. Il quale ci vuole, mi vuole, Parenzo, sostanzialmente in galera. Oh, che bello! È amico di Barca, cosa che rivendica. E scrive: Fabrizio Barca, in una telefonata ingannevole orchestrata da un giornalista radiofonico, ha fatto una serie di considerazioni sul governo che sta nascendo. Quella conversazione è stata diffusa online e il suo orchestratore l'ha usata per accrescere l'audience del suo programma. Beh, non è proprio questo l'intento, comunque non è un crimine, Con l'inganno si ottengono informazioni ingannevoli, distorte, non veritiere. Chi fa uso di questi metodi non è un buon giornalista e andrebbe trattato come tale. Il secondo aspetto che mi stupisce è che non ci sia stata alcuna reazione di condanna di questo metodo da parte della professione dei giornalisti. Alcuni hanno messo in evidenza che non esiste una norma di legge che protegga una persona dagli impostori. Ma che esista o meno è irrilevante. Molte cose non si fanno non perché è vietato dalla legge, ma perché violano la libertà del prossimo, perché fanno della violenza inutile e creano danni a terzi. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Prendiamo l'Accademia. Non c'è nessuna norma legale che sbatte in galera un accademico che ha preso un pezzo da un libro scritto da un altro e lo include senza citarlo in un suo lavoro. Ma dove l'Accademia non funziona... Ma dove l'Accademia funziona, anzi, chi copia il lavoro degli altri e si appropria delle idee altrui non campa a lungo, viene rapidamente estromesso. Nella vicenda in questione questo invece non accade. Servi di Roma fuori. Con la stessa logica bisognerebbe dare una medaglia al valore a Bernie Madoff perché ha fatto fessi 10.000 piccoli investitori. Negli Stati Uniti lo hanno glorificato con 150 anni di carcere. Capito? Siccome abbiamo fatto fesso Barca, meritiamo la galera, secondo il signor Luigi Guiso. Non spenderò. Ma che sì, un'opinione, certo, beh, su questo non c'è dubbio che è un'opinione. È rispettabile anche questa, non la condivido ovviamente, ma è rispettabile. Sali Padania, fai vedere. Dico solo che c'è una tonnellata di scherzi radiofonici, signor Guiso. Una tonnellata di scherzi radiofonici. Un attimo. Pronto. Signora Cancellieri, l'ultimo giorno da ministro. Buonasera, Cruciari, buonasera. Come mi sta? Mi telefono ancora, non ritiene che oramai io sia caduta insopportabilmente e inesorabilmente nell'oblio? Beh, ma ancora no, in realtà il governo deve ancora giurare, deve entrare nel pieno delle sue funzioni, lei ancora per qualche ora è ancora ministro. ingrata patria, non avrai le mie ossa. Beh, ma che vuol dire non avrai le mie ossa, addirittura? Vabbè, insomma, comunque... Ma come sta, come si sente proprio nelle ultime ore della sua, del suo servizio alla nazione, cara cancellieri? Ha fatto le scatoloni, ha fatto. Già gli scatoloni l'ha fatti, chiede Parenzo? Beh, dice, no, ma questa è solo fesseria, Parenzo, una cortesia, almeno in questo momento così cruciale, così solenne, vedo di essere. Ma quale solenne? Rispettoso della mia persona, via. Perché, ma li ha fatti gli scatoloni o no, ministro Cancellieri? No, io in questo momento sto pensando che l'importante è che lo svuota carceri prenda avvio, questa è la cosa importante, perché se no a svuotare le carceri ci vado io di persona, capito? Io oramai, adesso chi le farà le telefonate? Io ero una sorta di, come dire, di telefono amico, l'amica di tutti, indispensabile. Ma veramente risulta che lei ha chiamato solo la famiglia Ligresti, comunque, insomma. Ma queste sono le solite cattiverie di corridoio, io lo sai che c'erano centinaio di carcerati che io chiamo, quindi non parliamo, non diciamo. Cioè lei adesso è preoccupato, dice, chissà se Orlando, il suo successore, farà queste telefonate ai carcerati? Vabbè, insomma, questi poi sono fatti suoi. Comunque, lo sapete che Orlando è quello che tifa per lo Spezia, quindi è insignificante, questo è preoccupante, insomma. Vabbè, adesso chi se ne frega di quello che tifa? È un bel ragazzo, però, non le piace Orlando? È un bel ragazzo, lei che... Sì, vabbè, insomma, ragazzi, sapete che Gervinho, però, a bandera è Roma, ormai lo chiamano, mi piace Gervinho. Ma no, adesso prima Gervinho. De Rossi, adesso Gervinho. Comunque le segnalo che un altro membro del governo che sta per subentrare al suo governo, signora Cancellieri, è tifosissimo della Roma, il ministro dell'economia Padoan, sembra. Ah, ecco, infatti condivido doverosamente questa scelta, grande economista, persona di stabilità. Grande economista, ma che ne sa? Forza Lupi, sono finiti i tempi, finalmente romanista. E allora sai che faccio, Luciano? Che fa? Mi dica, io adesso sono libera di diventare capo degli ultras da Roma. E chi se ne frega? E vai. E allora? E allora Roma, Roma, Roma, finalmente posso cantarla per le vie Roma. Capito? Com'è che fa? Com'è che fa? Roma, Roma, Roma, core desta città, unico grande amore, bellissima. Vai, poesia, meraviglia, questo mi casa, però Gervinho non è male. Unico grande amore, com'è che fa, ministro? Senta, ma lo sai che se lei canta avrò l'insonnia? Com'è che fa unico grande? Vabbè, allora, facciamo un duetto. Unico grande amore di tanta e tanta gente che fa sospirare, eccetera, eccetera. Quanto è bella, mi piace. L'addio del ministro Cancellieri. Ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao. Se non sbaglio, il trans è una donna a tutti gli effetti che gli è rimasto il pistolino. Lei, dottor Cruciale, me lo deve saper dire perché gliel'ha sbattuto sulle spalle. Ho visto una foto di lei che di F che ciondolava. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, con lo dica, cassa, lei lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Sei ancora a casa, Simo. Radio 24. La passione si sente.